9 in punto, la versione di Oscar. Cari ascoltatori, buon lunedì, buon 13 di febbraio. Io immagino che alcuni di voi, se hanno sentito il lancio della trasmissione, diranno: ma come sarebbe a dire? Dici che dedichi una puntata insieme al direttore del Sole Roberto Napoletano all'Italia che riscommette su se stessa, a questa coincidenza. Il tema è anche per lanciare questa iniziativa che da domani trovate con tutti i giorni sul Sole 24 Ore, questo terzo dorso del quotidiano Imprese e Territori, con lo scopo appunto di raccontare le persone, i luoghi, i sistemi, le aziende dell'Italia che riscommette su se stessa. Ci dici che ci sono dei segnali evidenti intorno, per esempio, alle visite internazionali negli Stati Uniti e in Europa del Presidente del Consiglio Mario Monti, di nuova fiducia concreta, che si leggono anche nella discesa costante, graduale, ancora certo lontana dall'essere ideale, degli spread, ma insomma si toccano con mano. E poi ricominci la trasmissione come sempre con The Endless Doors. E il problema è che noi dobbiamo fare un mestiere complicato e la realtà non è univoca, quindi a me non piace mai dire che la realtà è ipersemplificata rispetto alla sua complessità. Se avete visto ieri, stamattina, le immagini che provengono da Atene, sapete, secondo me, e non potete che condividere, che la condizione in cui ci troviamo complessivamente come euroarea è ancora quella di una pesante incertezza. È vero, i greci hanno votato in Parlamento questo nuovo piano per ottenere la seconda tranche dei loro aiuti, ma contemporaneamente l'incertezza sul suo funzionamento è molto forte, ed è molto forte innanzitutto a Berlino, che ha tentato fino all'ultimo secondo di dire che bisognerebbe costituire un nuovo fondo in cui concentrare gli aiuti europei alla Grecia come garanzia vera, quindi non versarglieli, per così dire, dell'allineamento greco agli impegni che vengono votati in Parlamento, perché l'obiezione è che quelli votati in precedenza su quest'anno non sono mai stati però raggiunti abbastanza. E complessivamente, faccio un solo esempio, stamattina se trovate sul Financial Times, tanto per dire uno dei più grandi commentatori, Wolfgang Munchau, anche stamattina Wolfgang Munchau vi dirà che in realtà questa decisione è una decisione molto criticabile, quella di credere e scommettere sul fatto che la Grecia resti nell'euroarea. Anzi, Wolfgang Munchau proprio oggi firma un commento in cui dice esplicitamente: Grecia e Portogallo dovrebbero essere lasciate fuori, fallire e lasciare fuori. Per questo cominciamo come sempre con i nostri loro. Però è anche evidente, inizia a diventare evidente, che su questa Italia che ha cambiato marcia mentre stava finendo nel baratro, iniziano ad addensarsi aspettative, iniziano a prodursi risultati concreti che sono finalmente di un segno diverso da quello che ottobre, novembre sembrava precipitare il nostro paese in un abisso vero. Io vi segnalo per esempio sul Sole di oggi un bel rapporto che rimette in fila tutte le regioni italiane per diversi indici, per la produttività, per l'indice di imprenditorialità, per la propensione all'export, per il grado di apertura commerciale e poi ancora per i brevetti europei, per il tasso di occupazione, per le sofferenze crediti e imprese, che quelle sono ben lungi invece dall'essere risolte, e per i prestiti alle imprese. Ecco, riallinea i risultati 2011 e tutto il trend di ogni regione italiana negli anni 2007-2011. E il dato da cui parte, e che è un dato per molti versi, vista la profondità della crisi, stupefacente, è quello che in questo 2011 alle nostre spalle, in cui pure negli ultimi due trimestri si è iniziato ad avvertire il segno meno molto profondo per effetto dell'eurocrisi, eppure il risultato dell'export italiano in valore in questo 2011 era riuscito a tornare, contro ogni aspettativa, agli stessi livelli record del 2008 di prima della crisi. E quindi, analizzando numeri e dati alla mano, le risposte diverse, perché siamo un paese con profondo dualismo interno, che l'Italia ha di fronte alla crisi, con segni però che consentono di avere una nuova fiducia, ecco l'iniziativa che Il Sole ha assunto, che trovate in edicola da domani. Questo terzo dorso, Imprese e Territorio, e a questo punto abbiamo pensato che oggi, anche se molti penseranno, vabbè, fate una puntata tutta editoriale, no, ma abbiamo pensato di chiedere di spiegarci lo spirito di questo sguardo non ottimista di facciata, ma concreto, oggettivamente capace di leggere, interpretare i dati dell'Italia in una maniera che sia coerente, per interrogarsi sul fatto se davvero questa nuova fiducia di cui veniamo accreditati a livello internazionale ha dei fatti sotto di sé. E i dati iniziano a dire che questi dati sussistono, e allora bisogna fare il nostro mestiere, anche senza solo prestare l'orecchio alle sirene del pessimismo, ma anche con la capacità di sapere leggere in un'Italia che si regge in piedi, che ha dignità, orgoglio di sé. Ed ecco il motivo per cui è con noi Roberto Napoletano, che io saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te. Allora, direttore, io immagino che magari domani spiegherai ai lettori anche come nasce, proprio come ti è nata nella testa questa iniziativa. Qualche anticipazione, è chiaro che bisognerà leggerla domani, ma perché questo tentativo di dare questo nuovo strumento quotidiano per leggere in un'Italia che vuole tenersi in piedi? Ah, guarda, posso dire che l'idea l'avevamo già nella testa da parecchio. Poi è diventato un impegno con noi stessi il giorno, direi, della grande paura, quando ci siamo ritrovati con uno spread a 575 punti, con una curva dei tassi nel breve termine che era realmente molto pericolosa, con i BTP oltre il 7%, cioè quando oggettivamente l'Italia stava rischiando di diventare l'alibi della crisi europea, e si avvertiva proprio pesantemente che il conto che avremmo potuto pagare noi, un conto che incideva sul lavoro, sul risparmio degli italiani, era davvero molto pesante. Allora, in quel momento il Sole 24 Ore ha preso un'iniziativa che, diciamo, di un certo impatto, ha deciso di aprire il giornale con un titolo che penso molti ricorderanno: fate presto, a caratteri cubitali. Credo che quel titolo esprimesse, secondo me, il consueto rigore del Sole, perché voleva indicare algebricamente la gravità della situazione. Che cosa avevamo chiesto in quel momento? Avevamo chiesto un governo di persone che in grado di parlare la lingua dei mercati e degli stati, ma che avessero alle spalle una forza politica, cioè l'intelligenza politica di farsi carico della causa italiana. Questo, come abbiamo visto tutti, è avvenuto. Un recupero di credibilità c'è, rilevante, non siamo per nulla fuori dalla crisi, però ecco, proprio quel giorno l'impegno che abbiamo preso con noi era che bisognasse, superata questa fase di emergenza acuta, in qualche modo dare voce con forza all'orgoglio italiano, dare voce con forza alle ragioni dell'economia reale di questo paese, perché l'Italia non meritava e non merita quei valori. L'Italia deve fare molto, deve cambiare molto, ma ha dentro di sé una forza produttiva, un sistema di imprese che ha molti vizi, al suo interno tanti difetti che dovrà correggere, però, diciamo, continua ad avere una forza propulsiva che va ben oltre i nostri confini, che non può e non deve essere trascurato. Quindi credo che in questo senso nasce l'impegno di dare ogni giorno una informazione puntuale sull'economia reale. Non annunciamo così un dorso di, ci saranno certamente anche molte inchieste, molti approfondimenti, ma il nostro è un dorso di notizie, come c'è Finanza e Mercati, ci sarà, inizia una fase nuova per questo giornale, ci sarà impresa e territori. Quando parliamo di impresa parliamo di piccole, medie, grandi imprese, di multinazionali, di imprese manifatturiere, imprese di servizi. Quando parliamo dei territori italiani e dei territori del mondo. Cioè, se un qualcosa veramente deve ispirare il nostro modo di fare informazione è quello che io chiamo il criterio comparativo competitivo, cioè su ogni tema, su ogni situazione noi dobbiamo confrontare la nostra impresa con quella francese, tedesca, inglese, dobbiamo dare un quadro, come dire, il più obiettivo possibile di quello che è il nostro divario competitivo, di quelli che sono i nostri punti di forza, di quello che sono i nostri punti di debolezza. Io la chiamo un po' l'etica dei numeri, ma insomma è un qualcosa che Sole 24 Ore ha nei suoi cromosomi e che noi dobbiamo dimostrare ogni giorno di sapere esprimere, puntando a dare il massimo di informazioni possibili. In questo modo si può, secondo me, aiutare a ristabilire un clima anche di maggiore cauta fiducia, ma soprattutto si può aiutare non solo il sistema imprenditoriale a prendere quelle scelte da troppo tempo necessarie e per troppo tempo rinviate. Uno degli aspetti che fa molto discutere la stampa, io ti faccio solo questa domanda sul contesto politico, poi invece riprendiamo in mano un pochino i punti fondamentali dell'economia e delle imprese italiane, ma uno dei punti è proprio il sostegno o meno, ma insomma la credibilità oggettiva che questo governo merita e comunque inizia a riscuotere internazionalmente. La tua sensazione come osservatore è che la politica italiana, dopo un primo periodo in cui inevitabilmente le divisioni del passato si sentivano di più anche in aula, le perplessità ovviamente dei pezzi della ex maggioranza, la contrarietà delle Lega, ma oggi a distanza di poche settimane in realtà coi tempi della politica italiana, ma sembra già tantissimo tempo, l'impressione tua è che la politica italiana complessivamente l'abbia capito la necessità di stare unita e coesa su alcune priorità fondamentali? Secondo me il tasso di consapevolezza è aumentato, bisogna che si consolidi ulteriormente. Io dico due cose, cioè che perché la politica, in questo caso mi riferisco soprattutto agli azionisti di riferimento di questa nuova coalizione di governo, recuperi nel rapporto con i cittadini, con i suoi elettori, ha bisogno, come dire, di credere fino in fondo in se stessa e di dimostrare con una serie di scelte precise di voler voltare pagina. Quindi questo è in nome della causa italiana si può e si deve fare. Quindi io credo che era necessario all'epoca, quando eravamo effettivamente sull'orlo del baratro, un'operazione di verità, e adesso bisogna farne un'altra. Quindi è vero che il governo è costituito da ministri tecnici, è vero che non c'è una partecipazione diretta nella compagine di governo dei partiti che sostengono la coalizione di governo, però credo che il dividendo che questa azione di governo potrà assicurare, se riuscirà a centrare tanti altri obiettivi oltre a quelli finora realizzati, è sicuramente un dividendo troppo elevato perché gli azionisti di riferimento di questa coalizione decidono di rinunciare. E quindi io credo che questo tasso di consapevolezza possa e debba aumentare, almeno me lo auguro. È necessario, perché ciò avvenga, avere sempre presente qual era l'alternativa. Bisogna che sia chiaro, che noi lo abbiamo detto tante volte, che l'Italia, e non solo l'Italia, pagano i ritardi di un'Europa che non ha saputo fare le scelte che doveva fare, che continua ad indugiare, però è anche vero che il quadro è realmente mutato, l'Italia è staccata rispetto alla Grecia, l'Italia sta recuperando credibilità ed è molto molto importante che chi ci rappresenta a tutti i livelli, tra gli uomini di governo, gli uomini delle istituzioni, gli uomini che rappresentano la finanza di questo paese, l'economia di questo paese, possano dialogare e spiegare alla comunità finanziaria che cos'è davvero l'Italia. Perché questo quando abbiamo raccontato per esempio sul giornale che il governatore della Banca d'Italia, Visco, a Davos, ha avuto un lungo colloquio con il ministro dell'economia svedese, che è uno molto informato, molto stimato stimato come ministro dell'economia in Europa, molto informato sull'Italia, ma non credeva, ad esempio, che la riforma delle pensioni varata dal governo Monti era già in vigore, pensava che il provvedimento magari partiva dal 2020. Quindi è importante, molto importante, che persone ritenute credibili, capaci, come dicevo prima, di parlare la lingua dei mercati e la lingua degli stati, perché questo è decisivo, informino la comunità finanziaria, informino la comunità degli investitori. E quindi i primi segnali che abbiamo di recupero di credibilità vanno incoraggiati. Ovviamente non basta il dialogo, non bastano le parole, servono i fatti, e in questo senso l'azione deve proseguire, le liberalizzazioni vanno consolidate, non vanno stralciate, sul lavoro bisogna fare dei forti passi avanti. Bisogna tornare a scommettere il più possibile sulla crescita puntando sull'economia reale, questo mi sembra molto chiaro. Una domanda sull'Europa, è ovvio che le immagini come quelle di questi giorni, che poi sono puntualmente purtroppo riapparse sui nostri tre schermi, perché a Piazza Sintagma è da mesi che la protesta greca nei confronti delle misure sempre più restrittive è molto forte. Ecco, a quali considerazioni ci inducono? A me ha colpito molto nel fine settimana come la stampa tedesca ha documentato i suoi lettori, informandoli del motivo per il quale la cancelliera Merkel ha alla fine ha deciso comunque, diceva Der Spiegel nella sua lunga ricostruzione, di chiudere un occhio insieme a Wolfgang Schäuble sulla considerazione iniziale, cioè che i greci non erano stati in grado davvero di mantenere gli impegni e che forse non lo saranno neanche in questa occasione. C'erano dei virgolettati su Der Spiegel in questa lunga storia nella quale si ricostruiva una riunione di gabinetto riservato tedesco nel quale al centro del tavolo c'era un rapporto dell'IFO, l'IFO Institute è uno degli più autorevoli istituti di previsioni economiche tedesche. La previsione dell'IFO era che nel caso in cui la Germania avesse detto no, basta, adesso andate fuori, fate default e magari tornate alla dracma, per la sola Germania ci sarebbero state almeno 80 miliardi di un'ottantina di miliardi di euro di conseguenze immediate. E di fronte a questo Angela Merkel avesse detto insieme a Schäuble dobbiamo comunque proseguire in questa strategia, anche se dovremo abituarci, diceva Der Spiegel, a fare delle successive valutazioni di convenienza su quanto ci perdiamo di volta in volta, perché o questa spirale si interrompe oppure verrà il momento nel quale potrebbe essere che ci guadagniamo di più rispetto a quello che ci perdiamo di fronte a ipotesi diverse. E queste stesse ricostruzioni, sia pure meno ricche di taglie, c'erano sul Frankfurter Allgemeine, perché nell'edizione di ieri si diceva del cancelliere tedesco che avvisava riservatamente i leader del gruppo parlamentari su questa stessa cifra esaminata nella riunione riservata del Consiglio dei Ministri, dei Consigli Ministri tedesco. Ho già richiamato Wolfgang Münchau sul Financial Times, che dice è un errore, sarebbe meglio lasciare Grecia e Portogallo oramai fuori, perché si ristrutturerebbero molto probabilmente in maniera meno traumatica con una severa svalutazione ritornando a monete nazionali. Ecco, nel giorno in cui i mercati vediamo se si consolida la reazione positiva di cui abbiamo detto stamattina con le nostre edizioni al voto di questa notte del Parlamento greco, l'impressione che hai tu direttore è che ci sia una consolidata consapevolezza che insieme si regge tutti, oppure che ci siano molti rischi ancora aperti, che la consapevolezza politica europea non abbia ancora alla fine davvero raggiunto la convinzione che insieme è meglio piuttosto che separati? No, la mia sensazione è che sia pure timidamente si cominci anche in Germania, comincia anche la cancelliera Merkel ad usare un linguaggio più vicino a quello della verità. È evidente che ci sono, come dire, fino ad oggi ragioni politiche che hanno frenato un certo tipo di informazione, però bisogna che si affianchino i due elementi, perché da un lato indubbiamente c'è una virtù del bilancio che la Germania ha avuto e che altri paesi europei hanno avuto molto meno, dall'altro però occorre anche sottolineare che magari proprio per ragioni di credibilità della Germania stessa oggi i tedeschi possono finanziare la loro crescita nel lungo termine a tassi di estremo favore. hanno goduto di un vantaggio competitivo molto forte sulle esportazioni e, come giustamente dicevi tu, il conto, se l'Europa perde qualche pezzo, sarebbe sicuramente più salato per i cittadini tedeschi dello scenario alternativo. Quindi sono tutti gli elementi perché la ragione politica prevalga, in che termini non lo so, perché c'è anche una ragione molto distintiva di un popolo che ha comunque dovuto sopportare i costi dell'integrazione con la Germania dell'Est, che ha anche una serie di pregiudizi da superare, però questo è lo scenario obbligato verso il quale bisogna tutti muoversi. Diciamo, questa strada a metà che è stata scelta nel momento, anche con il ruolo della Banca Centrale Europea, che comunque sta agendo sui mercati ma non con la scioltezza con cui dovrebbe agire, delineano una fase di passaggio. Io credo che più segnali positivi arrivano dalle varie economie di questo paese, più forza politica si riesce a trasmettere al disegno unitario europeo e maggiori saranno i vantaggi per tutti. Quindi credo che questo sia un percorso realmente obbligato perché l'Europa torni in qualche misura davvero a credere in se stessa. Cioè, messi insieme è un pezzo di economia ancora importante del mondo, messo insieme c'è una forza politica che può valere, separati e divisi non si va molto avanti, ecco. Senti, alcuni mandano sms dicendo: ma i precedenti rapporti eccetera eccetera che fine fanno? Li troviamo nei giornali diluiti oppure oltre al terzo dorso continuano poi i rapporti e gli approfondimenti specifici? Sì, certo, del settore? No, ma noi avremo esattamente un terzo dorso che informa quotidianamente sull'economia reale, un terzo dorso con tutte le informazioni possibili di quello che avviene nell'economia italiana, e avremo, come dicevo prima, anche una serie di pagine nuove di informazione specializzata sui singoli settori, quindi ogni giorno il lavoro, ogni giorno mondo e mercati, un paese al giorno, dove e come investire, ogni giorno stile e tendenze, un appuntamento settimanale con la marittima, con l'agricoltura, con i media, con il turismo, con tutti i settori specializzati. Poi il martedì e il mercoledì ci saranno due appuntamenti ulteriori. Il martedì i rapporti settoriali, il primo è il turismo e poi si proseguirà con i singoli rapporti settoriali di tutto, diciamo, il sistema produttivo italiano, ogni settimana uno o due rapporti. Il mercoledì ci sono i rapporti territoriali, quindi il primo rapporto è la Lombardia ma poi si proseguirà con le intere regioni. Quindi questo è lo spirito di una informazione che si arricchisce e che vuole dare il massimo dell'attenzione sia ai territori sia alle imprese. Però un concetto su cui insisto molto, l'ho detto anche prima, forse mi ripeto, però secondo me è importante, che quando noi parliamo veramente dei territori, noi dobbiamo raccontare tutto ciò che vivono le imprese sul territorio, ma dobbiamo soprattutto collocare queste imprese e questi territori dentro un quadro competitivo, comparativo, globale. Questo penso che sia quasi in ogni servizio, noi avremo questo tipo di informazione ulteriore che chiameremo noi e gli altri, con un rating Italia sulle singole situazioni e con un rating mondo e mercato che riguarderà i singoli paesi e l'opportunità di investire o meno in quel paese. Questo è uno sforzo ulteriore di questa filiera della divulgazione che abbiamo inaugurato, che ha riguardato, come tutti penso abbiamo potuto notare, l'informazione di risparmio, l'informazione di servizio in un momento di grande difficoltà del paese, in cui tutti avevano e hanno timori sui loro risparmi, chiedono come e dove investire, ma che vogliamo trasferire anche nel racconto della economia reale. Cioè bisogna fare il massimo di operazione di verità, il massimo di operazione di chiarezza, perché questo aiuta a prendere le scelte giuste. Cioè, ho visto che tu appunto hai fatto riferimento all'inchiesta sulle 24 ore di oggi. Cioè, non ci dimentichiamo che nonostante uno svantaggio competitivo legato al cambio veramente rilevante delle imprese tedesche, delle imprese italiane rispetto alle imprese tedesche, le nostre imprese, cioè questa rete di medie imprese che sono, come dire, eccellenze di specialità, dalla meccanica alla moda all'alimentare, dalla meccanica di precisione alla chimica appunto di specialità, cioè mai il settore base, ma sempre grandi, come dire, eccellenze che sono comunque decisive per la crescita dei settori portanti. Ebbene, questo patrimonio industriale del paese è un patrimonio che, nonostante oggettive difficoltà, che sono, come dicevo, il cambio sfavorevole, una burocrazia complicata, un eccesso di peso fiscale e contributivo, un caro denaro e una situazione di reale difficoltà nel rapporto con il credito, ha preservato gran parte delle sue quote di mercato e ha un numero di eccellenze, cioè di primati, veramente significativo. Quindi andare a vedere proprio nel merito di che cosa stiamo parlando, andare a vedere col nome, cognome, numeri di che cosa si tratta è per noi un imperativo informativo, lo è sempre stato, ma da oggi diventa un qualcosa di più sistemico, un qualcosa di più organizzato, direi che rappresenta un investimento di lungo termine. Quindi, caro ascoltatore, non vi preoccupate, perché poi restano naturalmente giovedì l'immobiliare, venerdì lusso, il sabato il supplemento del risparmio, investimenti, la domenica c'è il supplemento, il domenicale, la cultura con Nova, quindi tutto questo si aggiunge a quello che c'è. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di questa Italia da descrivere, numeri, persone, imprese, sistemi organizzativi, sistemi territoriali distretti, per tentare di capire meglio come si esce dalla crisi in un'atmosfera che da una parte è segnata dalla durezza delle proteste greche, dall'altra dal lento, graduale, cauto rassenerarsi della tensione sui rischi sovrani nazionali. Io rispondo a molti che hanno mandato messaggi al 349-238-6666 dicendo: ma com'è, tutto nero, poi improvvisamente tutto roseo, perché adesso Monti ci salva solo perché in America gli battono le mani, ma credete davvero? Sono diversi gli ascoltatori, veramente, è il tono prevalente, per questo li metto tutti insieme questi messaggi. Ma credete per davvero, ci dicono, che problemi strutturali di così lunga durata si possano risolvere obbligando popoli a pagare i conti dei governi che hanno o non detto la verità o mentito per così lunghi anni? No, io di questo sono assolutamente convinto, tant'è che mi sentite instancabilmente riprendere commenti seri, al di là dei politici che a volte esagerano da una parte o dall'altra, che sottolineano come l'amarezza di queste misure deflattive e restrittive. La mia opinione è che non sarà mantenibile nel tempo. Questo io continuo a pensare, che la procedura di questo default semicontrollato greco ha un limite assoluto nella impossibilità per quel paese di fare davvero quello che gli stiamo chiedendo. Io di questo ne sono convinto, spero di sbagliare. Purtroppo l'alternativa a questo però era una deflagrazione dell'intero sistema euro, perché per come ci siamo arrivati dopo 2 anni di continua sottovalutazione, o meglio di progressiva acquisizione di consapevolezza, di imposizione di linee via via più dure, ma dopo aver detto che i paesi potevano fallire, perché questo è stato detto nel maggio 2010 e che i privati dovevano compartecipare, il mercato a quel punto ha iniziato bene a scommettere sul fatto che allora tanto valeva diversificare molto il premio al rischio, perché più alto era il rischio di compartecipazione concreta di privati al fallimento. Quindi il mercato ha fatto ciò che la politica europea ha detto ai mercati di fare, e dopo questo binario intrapreso, arrivare a questo è l'alternativa nel breve per evitare di far esplodere tutto, se credete nell'euro. Però se credete nell'euro, i politici poi devono unificare i mercati, cioè devono piantarla di dire che ogni tariffa, ogni settore va amministrato, regolato a livello nazionale. È questo quello che ancora è da costruire, perché solo rendendo i mercati dei beni e dei servizi comunicanti, cioè consentendo loro di aggiustare le curve di prezzo con la mobilità dei fattori, comunicanti per davvero, noi creiamo un presupposto posto a fianco del quale la politica poi può dire alla Banca Centrale Europea dai l'assenso al tuo sostegno a un debito pubblico comune. Se i mercati restano separati perché la politica vi dice che non bisogna abbattere le sue prerogative nazionali, non vi può dire poi che serve un'unione politica e una Banca Centrale Europea all'americana. Questo io continuo ad averlo come punto aperto nel nostro paese, ma non sottovaluto per niente il conto presentato ai greci, come a vasta parte anche degli italiani, che non se la battono molto bene e che vedono da queste riforme soprattutto cose che poi li toccano nella tasca, come nel caso della riforma delle pensioni immediata, che secondo me è stata la cosa più straordinariamente positiva del governo Monti. Posso chiedere a Roberto Napolitano cosa pensa per esempio di un altro dei capitoli che il governo si accinge a voler chiudere entro fine marzo, ha detto quindi entro poche settimane, quello del mercato del lavoro. C'è una consapevolezza secondo te sufficiente tra sindacati, imprese e anche parti politiche sulle soluzioni che in realtà dall'estero tutti i fori internazionali ci chiedono da anni? Sì, credo di sì. Permettimi solo di dire una cosa, perché ho seguito il tuo ragionamento, che diciamo è molto interessante, e soprattutto il riferimento che hai fatto ai radioascoltatori che sì, legittimamente dicono bianco nero. Non è bianco nero, è evidente che bisogna, per quanto riguarda noi, recuperare una serie di ritardi e occorre un cambiamento in profondità nel modo di affrontare e vivere i problemi. Insomma, deve essere chiaro che in quel debito pubblico mostro che abbiamo in Italia c'è la sintesi di una serie di piccoli grandi vizi che tagliano trasversalmente il paese, dal quale dobbiamo avere noi la ferma determinazione di uscirne. Questo è un passaggio che va al di là delle regole dell'economia e delle regole, diciamo, della finanza. Dentro questo processo di cambiamento ci deve essere anche la consapevolezza di quelli che sono i nostri primati, di quelli che sono i nostri punti di forza, per non sbagliare l'investimento di lungo termine. Queste secondo me sono due scelte strategiche molto difficili da, come dire, da collocare, che vanno ben spiegate, ma soprattutto vanno come dire, costruite. All'interno di questo disegno la questione lavoro di cui parli tu, la questione che riguarda soprattutto i nostri giovani, ma anche questa fascia intermedia che tutti dimenticano, di 45enni, 50enni che si trovano dalla mattina alla sera senza un lavoro e per i quali è veramente difficile ritornare nel mercato del lavoro, a questo tipo di situazioni sempre più diffuse occorre dare risposte in nome dell'equità, quindi bisogna effettivamente rendersi conto che a nessuno, nemmeno all'impresa, corre, diciamo, giova investire sull'eterna precarizzazione. Però bisogna anche rendersi conto che, anzi viceversa, l'impresa deve investire sul capitale umano, quindi deve investire, come spesso fa, sulle competenze che quel lavoro ha e può costruire in un termine molto lungo. È chiaro che tutto ciò comporta, e questo riguarda le imprese, riguarda la politica, riguarda il sindacato, riguarda tutte le forze sociali, occorre una grande assunzione di responsabilità per prendere le decisioni che dobbiamo prendere, soprattutto in nome di chi ha meno diritti, di chi è ai margini del mercato del lavoro, di chi non vede nemmeno uno spiraglio, e quindi tutto ciò non è un problema che riguarda lui, non è che riguarda il giovane che non vede lo spiraglio per tornare a lavorare, non è il cinquantenne che non riesce a tornare nel mondo del lavoro, ma riguarda tutti noi. Quindi questo diciamo è una scelta veramente, veramente molto molto importante, e io credo che questi segnali che vengono anche dalla CGIL oltre che dalla CISL e dall'UIL, che sono segnali poi in realtà semplicemente di assoluto obbligatorio buonsenso, vediamo in profondità, entriamo nei singoli temi, vediamo di che cosa si tratta, sono come dire degli atteggiamenti necessari, fondamentali, e speriamo che producano quello che deve produrre. Ci sono state già altre stagioni, penso al dopoguerra, in cui il sindacato ha fatto delle scelte importanti, e quindi bisogna che il sindacato da una parte e il mondo dell'impresa dall'altra, con uguale rigore e con uguale impegno, perché nessun accordo è possibile se non c'è da parte di entrambe le parti la volontà reale di fare dei passi avanti in modo reale e corretto. Credo che i tempi siano maturi perché il mondo del lavoro anche in Italia cominci a cambiare e si trovi la possibilità di dare più risposte concrete a chi continua a stare ai margini di questo mercato. Risposta ad Alberto per tanti, per tutti, no, ti assicuro Alberto, per parte mia di sicuro, io non sono il direttore del Sole ma è qui invitato e credo di poter dire che ha detto esattamente questo, non è da parte dei colleghi del Sole, io il mio lo farò mai, non è assolutamente il tentativo di imbonirvi dicendo che non ci sono le 300 crisi territoriali per quasi 280.000 occupati per esempio aperte al ministero di cui è responsabile Corrado Passera, non è il modo per dirvi che in tutta la fascia pedemontana italiana continuano a essere aperte da anni crisi profonde che dipendono dal fatto che il nuovo mercato mondiale per chi non riesce a stare sulla catena medio-alta del valore aggiunto inevitabilmente ha problemi molto seri a rimanere nelle stesse catene di fornitura precedenti e a essere competitivo, anzi è la maniera di impegnarci a mettere la testa esattamente su ciascuno di queste, non solo su queste ma innanzitutto su ciascuna di queste, perché la modalità attraverso nuovi modelli organizzativi di dare risposta a questo è il punto di fondo anche di questo nuovo terzo dorso. Sì, da parte mia c'è una convinzione, la globalizzazione non è affatto però la gara in cui vince chi ha costi più bassi e diritti più bassi da tutelare, non è così. La globalizzazione assicura centinaia di milioni di nuovi clienti a chi sa fare cose di buon valore aggiunto, a chi sa offrire prodotti e servizi che in quel caso sono capaci di remunerare in maniera più elevata sia l'intensità di investimenti maggiori per fare alto valore aggiunto, sia i costi del welfare maggiore, sia i diritti maggiori che noi continuiamo a tutelare. Però noi possiamo farcela se cambiamo la testa e riusciamo rapidamente. La Spagna ha appena fatto una riforma al mercato del lavoro che in Italia tutti considererebbero, hai voglia quanto rivoluzionaria. L'ha fatta con un governo che ha vinto le elezioni dicendo che la faceva e l'ha fatta in pochissime settimane. O siamo capaci di pensare che siamo anche noi in grado di cambiare marcia così e ci mettiamo la testa tutti, ciascuno per la propria parte, oppure signori è inutile prendersela solo con i governi del passato che hanno sbagliato tantissimo e che dovevano andarsene prima. Il problema è che ciascuno di suo può fare questo cambio di marcia e non c'è nessuna retorica nel fatto che io sono uno che ha cambiato 12 mestieri, è andato 2 volte in disoccupazione, ha dovuto fare cause e così via, quindi figuriamoci se io mi illudo che tutto facile, non è facile un piffero. Il problema è credere che cambiare marcia si può oppure no, altrimenti se non cambiamo marcia non è l'euro che ci salva, siamo comunque un paese fottuto seduto sui talloni, io non lo voglio un paese fottuto sui talloni, credo in questo e anche per questo lo dico con una passione un po' particolare, penso che far capire meglio a tutti i numeri dell'Italia, i numeri su cui i politici spesso sono ignoranti per primi, lo vogliamo dire, il fondamento di questo governo è perché conosce meglio i numeri di questo paese e quelli degli altri paesi, mentre prima la politica ci aveva disabituato, destra, sinistra, eccetera, centro alla più totale, a un minimo di livello di consapevolezza dei numeri. Questo conta o non conta? Secondo me conta, non è pubblicità e non è al servizio di questo governo, capite? No, no e no. Tornano i Dors anche perché proprio sui dati dell'Italia noi non dimentichiamo che siamo a 21 punti di produzione industriale ancora sotto rispetto al pre-crisi, eppure siamo tornati in valore allo stesso export manifatturiero di prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che minori volumi li vendiamo a costi più elevati perché evidentemente c'è buon valore aggiunto. Non vuol dire però dimenticare che in quel 20% di produzione industriale in meno, solo 9% in più rispetto al picco negativo del dopocrisi, c'è esattamente il problema di cui vogliamo raccontarvi i protagonisti e le storie negative insieme a quelle positive. Direttore, mi sono un po' appassionato perché gli ascoltatori hanno un po' l'impressione che ci sia dietro, per così dire, un artificio di ottimismo. No, non è così, ma basta vedere il titolo di oggi del Sole 24 Ore lunedì, è la grande mappa della crisi, noi stiamo esplorando e vogliamo esplorare la crisi italiana, però vogliamo anche indirizzare, aiutare a ricostituire quelle condizioni minime perché l'impresa possa investire su se stessa e perché la piccola impresa diventi media, la media diventi grande, perché si costruisca questa rete delle eccellenze, perché si diano al sistema imprenditoriale le risposte di cui hanno vitale bisogno. Ovviamente questo riguarda anche l'impresa, cioè nel senso che non è che molti dei difetti non ci siano anche lì. Direttore, ti devo interrompere perché ci abbiamo la pubblicità. A domani, Radio grazie 24. Napoletano. La passione si sente.